ogni giorno ne saltan fuori di nuovi. Bella faccia, occhi dolci e subito approvi. Se abbiano talento non te ne frega niente, tanto poi chi li sente? Da quello che ven dietro, perché è un imbranato a portare la notizia che dopo è dimagrito, ha fatto un incidente, è passato col rosso, chiede perdono, ma sarà il tempo stesso. Tutti ci chiediamo quando sparirà, spero prima che la mia vita passerà. È rimasto perverso anche se è andato tutto storto, quella volta in bagno in aeroporto. Fattore X o amici influenti, deviate migliaia di giovani menti, generazioni senza identità, bestie prive di personalità. Non ti scordar mai di me, che sono il profeta. Due le cose importanti, la seconda è la meta. Che sia amore o mistero, di sentimento si tratta. Restan solo briciole, sei stupido fatta. Sempre dietro al capitano che muove la mano e muovi a tempo il bacino, seguendo l'uncino. Se sei amico di Maria ma non è bionda a sette punte, portala da me, festeggeremo a mani giunte. Qualcuno nel silenzio ascolta troppe volte, mille pezzi sospesi tra espressioni poco colte, tra piogge e nuvole sulla mia pelle. Sento vorticose le mie, certi giorni d'estate quando siamo tutti fuori, straordinaria la vita. Se il mio amore unico sei soltanto tu, ma ti giuro amore non c'è fazzo più. Guardo la cartina e non cerco indicazioni, arrotolo, farcisco e fuoco con cannoni. È un giorno strano, chi decide sono io, metto la radio in stand by e faccio a modo mio. Fattore X o amici influenti, deviate migliaia di giovani menti, generazioni senza identità, bestie prive di personalità. Non ti scordar mai di me, che sono il profeta. Due le cose importanti, la seconda è la meta. Che sia amore o mistero, di sentimento si tratta. Restan solo briciole, sei stupido fatta. Sempre dietro al capitano che muove la mano e muovi a tempo il bacino, seguendo l'uncino. Se sei amico di Maria ma non è bionda a sette punte, portala da me, festeggeremo a mani giunte. Vorrei tenerti qui con la forza mia, picchiandoti forte per non farti andar via. Prima di te era un giorno perfetto, ma dentro questa musica trovo un difetto. Lega ambiente però l'ha subito approvata, ci ho messo dentro della carta riciclata. Resto dell'idea che non ti si può ascoltare, ero stitico ma tu fai cagare. Quando ascolto te sento dentro un brivido, il segno che hai di me sarà di certo un livido. Ti rincontrerò forse in un'altra vita, sembra chiusa qui ma per te è infinita. Fattore X o amici influenti, deviate migliaia di giovani menti, generazioni senza identità, bestie prive di personalità. Non ti scordar mai di me, che sono il profeta. Due le cose importanti, la seconda è la meta. Che sia amore o mistero, di sentimento si tratta. Restan solo briciole, sei stupido fatta. Sempre dietro al capitano che muove la mano e muovi a tempo il bacino, seguendo l'uncino. Se sei amico di Maria ma non è bionda a sette punte, portala da me, festeggia.